Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone. Le festività a cavallo fra l'anno vecchio e quello nuovo possono essere accompagnate da cambiamenti dell'umore anche rilevanti. È importante non sottovalutarli. A Obiettivo Salute il professor Giampaolo Perna, psichiatra, direttore scientifico e primario presso la Casa di Cura San Benedetto ad Albaese con Cassano, ci indica i segnali che non vanno sottovalutati. È molto importante innanzitutto vedere se siamo reattivi con quello che accade nell'ambiente. Cioè se capita una cosa bella, riceviamo un bel regalo e il nostro umore torna a essere positivo e gioioso, in quel caso è un segnale che è semplicemente stato un calo normale dell'umore. Un altro punto molto importante è verificare com'è la nostra capacità di provare piacere. Se questa è intatta, cioè se noi non ci siamo spenti nella capacità di godere della vita, in quel caso è un segnale positivo. Se invece non siamo più capaci di provare piacere, ecco che diventa un segnale d'allarme. Un altro punto importante è la volontà. Se la volontà di reagire e combattere rimane lo stesso, è un segnale positivo. Se invece si affievolisce o si spegne, è sicuramente un segnale negativo. Ultimo punto importante da valutare con attenzione è il sonno. È chiaro che se nei bagordi di queste feste poi non si dorme per indigestione o magari per qualche bicchiere di troppo è un conto. Se invece riusciamo a dormire troppo poco e siamo molto molto stanchi, questo è un altro segnale di allarme importante. Questi sono i tre segnali, due dal punto di vista mentale, uno dal punto di vista fisico, che devono farci preoccupare ed eventualmente far fare una chiacchierata almeno con il medico di base. Le feste vi hanno segnato, vi sentite pesanti, stanchi, fate fatica a digerire, non gettate la spugna, bevetevi una tisana. A Obiettivo Salute le erbe per digerire le feste consigliate dal dottor Luca Voledo, naturopata. Vi suggerisco una tisana ideale in questi giorni di festa, con un susseguirsi di pasti e cene in genere troppo abbondanti e anche ricchi di grassi e di dolci. Acquistate in erboristeria una miscela in parti uguali di semi di finocchio, cumino e anice stellato. Sono piante che hanno delle proprietà digestive e carminative, cioè di eliminazione dell'aria che si è accumulata nello stomaco e nell'intestino. La tisana è molto facile, si prepara in questo modo. Siccome sono semi un po' legnosi, coriacei, si possono pestare in un mortaio con un pestello per frantumarli un pochino, e se non avete un pestello si possono avvolgere in un tovagliolo e schiacciare con il fondo di un bicchiere. A questo punto si porta a bollire una tazza d'acqua, si versano i semi pestati, un cucchiaio per tazza, si lascia bollire un paio di minuti, quindi si spegne il fuoco, si copre e si lascia in infusione una decina di minuti abbondanti, quindi si filtra e si sorseggia, una tisana perfetta contro i gonfiori addominali e difficoltà digestive. Pancia gonfia? No grazie, i consigli del dottor Avoleto sulle pagine di Obiettivo Salute. Per oggi è tutto, la programmazione di Radio 24 come sapete prosegue con Melog e io vi aspetto in video. Iniziamo il nuovo anno occupandoci delle nostre chiome. In studio con me Fabio Rinaldi per consigli e strategie per non perdere la testa. Per oggi è tutto, un saluto da Nicoletta.